Sembravo in FM, là è in FM, però qua sotto ero in AM. Ti sei confuso del radio. Ah, appunto. Mudo con una e mi guardo l'altra. Io non le guardo perché altrimenti siamo scemi. Vabbè, a volte la guardo per vedere il segnale più che altro. Poi se non avrebbe avuto neanche quello, non l'avrebbe neanche guardata in faccia. Che poi magari a forza guarda l'ACB-T-C-Q. No, tanto è sì, da manicomio. Io mi vedo per niente guardare. Non saranno. E allora io gioco da manicomio. A chi lo vedo a breve a voi. Ah, questo è il problema tuo. A volte ci sono disagi, tutte le famiglie fra ci sono disagi. Sì, non lo metto in dubbio, ma è meglio stare lontano, perché secondo che ti sente, ti viene e ti mette subito la camicia di forza. No, vabbè, non c'è bisogno che venga qualcuno, se non la vuole già mettere mia moglie. Mi sa da così te ne devi riguardare bene. Sto temendo una notte che mi leghi a letto. A che notte mi avete mi bugnareggio. Quindi bisogna stare un po'. Bisogna dormire con l'occhio, diciamo, come ti fa dire, grazie a Mesina. Che dormiva in un'altra punta della Breda, un gabò, dormiva a Mesina, ha fatto un racconto e dormiva per non prendere sonno profondo quando era latitante. Dormiva con la testa appoggiata a una pietra, no? E in modo che riposava, però era sempre su chi va là, perché dice che gli dava fastidio alla testa e non prendevi mai sonno profondo, capito? Così bisogna fare con le mogli. Bisogna prendere una pietra da fuori, fra, se non ce l'hai te la porto io, viene te la prendi, una bella pietra a punta, e te la metti sopra il cuscino, ti metti il cuscino e sopra ti metti la pietra, così non dormi mai a fondo. Se ti vogliono fare fuori, hai sempre i riflessi pronti. No, e dormo tranquillo, non ti preoccupare, che senza di me lei non magna. La sapevi da questa cosa di Mesina? No, è la prima parola che hai sentito, ma sarà qualche barzelletta? No, assolutamente Franco, la pura verità, non mi permetterei mai. È la pura verità, Franco. Dormiva, quando era latitante, dormiva con la pietra, con la testa appoggiata a una pietra, capito? Per non prendere mai sonno a fondo, perché c'era gente sempre che gli dava la caccia, capito? Quindi lui si riposava, ma mai in un modo confortevole per non perdere, dice, perché tanta era la stanchezza, tanto ero stremato, stavo sempre, ero sempre attento, sempre di guardia, e dormivo con la testa appoggiata alla pietra per non prendere sonno. È una teoria buona. Sì. Oh, parole sue sono, poi se Bugi l'ha detto, Bugi ha tutto dicendo, però sono parole sue. Io ho seguito molto i suoi documentari, quindi, ma non perché è un eroe, ma perché mi interessava ascoltarlo. Ce ne sono tante di cose che diciamo che ha escogitato per scappare, per tu pensa che quando era latitante aveva anche lo scrivevano anche le donne. Ormai mi sa che Messina ha già finito di scorrazzare. Oh, non si è più saputo niente, non si è più saputo niente. Il suo è ormai si è rassegnato. Ci sono? Davvero. Sto uscendo? Davvero. Allora già va bene. Buonasera. Ah, ecco, già va bene. Buonasera. Che sera. Aggiungo, mi faccio lo smitter. No, è perché questo microfono fa capricci, Franco, caro Franco, questo microfono è da controllare, quindi sinceramente prima di entrare chiedo. E forse è anche la potenza da controllare, perché 9,50. Buonasera comunque, ben ascoltato. Avanti a vi. Buonasera Tino. No, perché fra fasi che la fasi non ha mezzo minuto, capito? O è basso o non si muove l'ago o ti chiudi l'ago o ti sbatte l'ago alla porta di camera. Avanti tu. No, vedi Franco, adesso puoi controllare lo smitter, perché non è 9,50 poco fa. Vabbè. No, veramente mi sono spaventato quando ho visto lo smettere di andare così, ho sentito il colpo proprio, ho sentito. No, adesso sei 9,60, ma è aumentato. Così è, Gavi. Ma cosa vuoi fare? Ragazzo, lascia. Gioca Yuka. Ragazzo. Fallo fare, altrimenti ora si faccia anche peggio. Vai. No, ho abbassato. No, è sempre così in FM. Ho abbassato. Fare peggio significa accendere, aspettare, fare, lascia perdere un periodo. La corrente costa un bel adesso. In genere la corrente devi trovare quello che te la vende. Ma ho fatto un'offerta oggi a proposito di corrente. Una tariffa. Una tariffa mi sembra che era o 8 o 9 centesimi a busta, te la davano dentro le buste di plastica. Aspetta che leggo. Ciao Tino, non vai a rosinare, ci mancherebbe altro. Aspetta che lo rispondo, aspetta. Sta attento che ci sono i cancelli chiusi automatici lì. Capito fra. Nelle buste di plastica te la chiudono la corrente adesso. Davvero? Se mi accabbero un problema. No, il mercato libero la vendono a buste. Oh, non sono a chili, a etti o come? Ma dovrebbe essere, più che altro dovrebbe essere a etti, perché una busta di corrente, cosa vuol dire qui? Neanche un etto. Dovrebbe essere intorno ai 10-12 centesimi a etto. Ah, così si chiama ora, corrente. Sì, corrente, a etto, dentro la busta di plastica, dentro quelle buste blu dove mettono il formaggio, là, quelle buste a pacchi. cosa. Oh Gabri, se ti mandano 380 è molto pesante. Sacchi da 380 è un casino, ma 380 a sacchi. Oh, oggi ho visto tante di quella selvaggina che la mette a bassa. Dopo tante volte che sono andato, questa era la giornata, ho visto in tutto, ho visto 6 cinghiali, ma per poco abbiamo anche seguito, cioè abbiamo seguito e ha fatto un bel po' di strada con noi. A un certo punto Gavi si è buttato a un'altezza di forse 6-7 metri in volo, proprio ha deciso di saltare così. E tu? Tranquillo, già non si fa niente quello lì. Quello non si fa niente perché cade di schiena. Già lo sai dove mette cagì. No, è quello di lì. Io in ambienti così potrei essere pericoloso perché inizia a mollare il filaccio nei vogliami. Poi se lo prendo sono dolori. Pernici, guarda, ne avrò contato una ventina. Vabbè, capre, mufluni, sono all'ordine del giorno. Ma così non te ne bussate? No, lì non fa, purtroppo non fa, però se dormivo lì già faceva. Lì ce n'è tanta, perché non c'è la caccia come qua. Oddì. No, lì fanno la cattura per darlo in beneficenza, dimmi che. Ma ce la fai a macellarlo in una notte? Ma basta un'oretta. Quindi in una notte potreste fare anche 6 o 7. Lui, passa lì. Oggi ho visto, forse erano 5 o 6, proprio un gruppo grande, e poi uno per i fatti suoi che era abbastanza grande, ma non sono grandi quanto quando andavo a caccia io, questo è proprio il vero formichiere, dai, ha il muso lungo e non fa più di 50 kg, non è che quelli che prendevamo noi erano 70, 80, 90 kg, erano incrociati, però insomma è buono lo stesso, ma no, più buono è perché lardo al grasso fine, quello che fa sul fritto buono, non c'è bisogno di mettergli neanche olio, tanto olio quello si scioglie e fa con le olive, tanto di lì dovete avere anche olive a confetto, quindi fai tutto un viaggio. Fai tutto un viaggio, ti tutti digni, ti arrigheggia, poni tutti i rudelli e arrigheggia, vai fra. Quello è l'originale del cinghiale, quello è l'originale, mentre qua sono tutti incrociati. Sì, però fra, adesso per dire, stavo parlando con uno della Sinale, no? Ma comprarlo qualche cinghiale così per mangiarci, per mangiare, lascia stare, questi fanno la cattura, la forestale fa la cattura per praticamente darli in beneficenza quando fanno delle feste, una cosa del genere, no? E cioè, quando vai qualcuno non finisce anche nella propria tavola. E beneficenza Eddie? Mi ha detto, guarda, in estate me ne vengono qua dentro, che lui ha una sorta di casa di affitto, una specie di ristorante, una cosa del genere, no? E tu venivano qua, proprio vicino al tavolino a mangiare, ma li dovevi vedere, no, la mette, sono magri, facevano anche paura da quanto erano magri. E invece in inverno si riempiono un pochino di più. Ma nel caso, ho detto, se volete qualche numero ingrasso, non è che... Vabbè, ma quando mai lì Ottino, se non li ammazzano lì i cinghiali in un'isoletta come la Sinara, penso che sia piccola, però non è neanche grande. Io penso che poi siano soprannumero lì dentro. No, fra, fidati che è grande, ce n'è spazio a Puglia. Non fanno in tempo a ripopolarla così facilmente, già ce n'è spazio. Lui è entroterra, non è che insomma è proprio il posto suo, sono pernici è pieno. E quelle mica le ammazzano. Cioè, perlomeno, lì non fanno la caccia alla pernice. Metti le nasse, ti, nasse, 4-5 nasse. Non sarebbe una cattiva idea, quel gran turco. Solo che magari poi mi trovo il cinghiale dentro. No, andarsi anche in mare, ti, un paio di panini duri ti porti, metti una nasa in mare e fai, nasa a mare, nasa a terra, filaccioni, lì ci avresti andando a lavorare, lenze, lenze per tirare i piombi. Guarda, con noi c'è un ragazzo che abbiamo fatto entrare noi stesso, che è recidivo di queste cose qua. Non so, siccome stavo parlando di quelle ratte che erano fuggite dalle vasche, no? Di Sentino, non so se l'avete saputo, la pescata ne aveva fatto una cinquantina di chili, ha fatto, certo, non solo ma Alessandro fa cosa del biglietto di cinghiali, se facciamo un posto del blocco con 50 kg di pesce, mi faceva la biscia. Sì, sì, vabbè, no, quando dice lenza, la lenza mi devono tirare i piombi, capita, con gli amici antitartaruga. E gli butta nassetti, nassette, ci sono quelle nassette che sono pieghevoli, capito? Diventano come un piatto di plastica, apri le cose e diventa la nassa. Mi butti una decina, dopo di domani mattina vai e guardi, sicuramente è piena. Sì, sì, lo so, ma io non è che... Io sono in prestito di... sono in prestito per dare una mano, che sono un po' indietro dei lavori, e quindi non so quanto ci posso rimanere, 2 o 3 giorni, forse la settimana, poi riprenderò là. Sì, no, ma scherzando, ma te, cioè, no, bisogna avere anche rispetto un po' dell'habitat. Non ci credi, d'altro a quello che tu dici, però io non ci credo. Vai, fra. Capo. Ma, oddio, ma i pesci non sono scappati da Trentino? Non erano scappati dal Ghello? No, no, no, no, no. Una barca si era sbattuta a quanto mi hanno detto, e poi si era sbattuta alle vasche che sono lì a Trentino, e quindi la danneggiata è quelle orate di allevamento. Tant'è vero che a Fiume Santo hanno iniziato a pescare e qualche luna è arrivata anche dal Ghello. Ofra. Eia. E allora se può più masochizzi dal Ghello a venire a Cuscio d'Orra, eh? No, io avevo capito che era l'Alghero lì a... siccome ci sono le vasche del... come si chiama? Di... La vasca da bagno? No, no, c'è a coso... adesso non... a Fertilia, di Fertilia, le vasche di Fertilia, li hanno urtate e sono scappati, tutti i pesci sono scappati, e sono arrivati anche qua. Oh, molte, molte, molte ratte. Tantissime, tantissime. Quelle che hanno preso, e chissà quante ne sono, ce ne sono libere. E vabbè, meglio così. Qualcuno allora si è mangiato un po' di orate, dai. Chissà come hanno fatto una barca si è sbattuta. Una nave. A quanto mi hanno detto, e poi fatto un bel po' di danno. Ma il problema è che chi le ha prese? Questo amico mio che le ha prese. Ma se capita la prossima volta, detto, non ne pesco più così tante. Se non vuoi tocca andare a regalarli, burro. Caspita. Quella è stata una pesca miracolosa. Quella è stata una pesca miracolosa. Sicuramente chi ha buttato palami torretti ha fatto una bella pescata, eh. Non di poco valore perché sono latte di allevamento. E dalla latte di allevamento glielo pagano, però sempre bugliato di mariso. Certo che sarebbe un bel... sarebbe bello sapere, no? Chi ha il gozzo che pesca con le retti, e porta nel magazzino dove versa il pesce, e ha portato, si è preso quelle orate lì, no? Come gliele pagano? Orate d'allevamento o orate prese, orate diciamo o alle normali? Uno dice, ma sono orate d'allevamento, sì, ma oggi guardi voi il rete. Quello è un bel inghippo, eh? Vabbè, cosa c'entra? Mica ha entrato la rete dentro la vasca d'allevamento, quella era pescata a mare, quindi sono così di mare, non è che. È che ha avuto quella fortuna di intoppare lì. No, la mia domanda è questa. Se viene uno, no? E te ti dice, te ne servono orate. E tu dici, sì, a quanto ce li hai? Ce li ho da 18 euro il chilo, orate prese a mare, no? E tu gli dici, queste qua sono orate da allevamento, ma io le ho prese a mare. E tu, siccome non sei scemo, dici, no, queste qua sono orate da allevamento, torra, io le ho giubilate a mare. Vieni, uno dice, ah, ma paruguru mi si bigliendi, cioè, detto proprio parole povere. E lui ti dice, no, io le ho prese a mare queste qua. Dimostrami il contrario, chi ha ragione? Chi li compra? Sì, chi paga? Fra, caspita, anche quello là dice. Aspetta, guarda Gavri, l'orata d'allevamento c'ha la schiena, c'era il bordo della schiena sopra, ce l'ha nera. Quella di mare ce l'ha dorata, argentata. Sì, lo so, però, fra, mi stai capendo quello che ti voglio dire? Uno dice, ho pescato le orate, uno che c'ha il gozzo con la rete, un pescatore professionista, e ti dice, ho pescato le orate, e ti dice, le vuoi un paio di chili? Sì, dammele. Le guardi e dici, ma queste sono orate d'allevamento, tu le hai comprate in pescheria e te le stai rivendendo per orate fresche. E lui dice, no, le giubilate a mare. E tu, no, chi ti abbilati in pescheria? Torre, le giubilate a mare. Dimostra, cioè, chi ha ragione? Lui... Sapendo che ci sono queste orate scappate, te lo dovrebbe dire. Se no ti sta comprando, dice no, io non te li compro a quel prezzo lì, perché queste sono di... vale, me le compro al mercato. Sì, vai, tu forse mi hai capito. Vabbè, il problema è l'altro. Se... Aaron, mica stanno cercando di... ma perché non... Perché non me l'ho comprato questo qua? Ci basta meno. Oh, è piccolo, non sei ventato più grande di altro. Me. Aaron, Nicola. Diciamo la verità, Gavi, che... se li vuoi ti ricompi, se non vuoi lasci. Sì, vabbè, quella è la soluzione più rapida. Però... È un quesito. Va bene. Vai, fra, riprendi, ma lontano un attimo. Eia, di sicuro non ha ragione il pescatore. Non ha ragione. Perché non ha ragione il pescatore? Il pescatore l'ha pescata a mare. Ho capito. Ma tu sai anche, sei andato lì a prenderle sicuro. No. Non è che sono andato a prendere sicuro, il pescatore mette la rete. Il pescatore mette la rete e si sono agganciate queste orate. Dove le prese? A Platamona, perfetto. Vai a venderle, e quanto di voi? Orate di mare, 18 euro al chilo. Ma queste sono di allevamento, e io 18 euro non te le pago. E vabbè, queste qua sono orate di mare, io le ho prese a mare, dimostrami il contrario. Riprendo subito. Sì, vabbè, il contrario non glielo puoi dimostrare, perché le ha prese a mare, è ovvio che le ha prese a mare. Però uno che sta comprando dice, io queste non te li pago a quel prezzo e non le compro. Buon punto. Così è, Tino. Certo. Uno ha ragione, chi paga. Perché se tu me lo lasci usi, perché a me siamo... Ah, poi un'altra cosa. Ovviamente la maggior parte sono tutti di una pezza, quindi è dimostrabile. Infatti, a parte quello, ma poi si conoscono, perché io quando vado in pescheria e vedo quelle di mare, che sono per dire a 18, tanto per dire, e poi vedo quelle di allevamento, che le vedo a 7 e a 8 il velo, poi se tu te la guardi una con l'altra sono diverse. Certo, vabbè. Diciamo la verità, che se poi vedi che il pesce è fresco e lo vuoi proprio comprare, te la prendi. Io, vabbè, devo essere sincero, quando vado alle Rospinche vedo le orate che mi interessano, una certa pezzatura però, perché a me quelle piccole da 200-300 grammi non va bene, se superano i 400 va bene, e allora le prendo, se no no. Guardo sotto la branca, se è fresca la prendo e non so neanche guardare il prezzo, sinceramente. Sono sempre del parere fra meglio un gusto che 100 malanni, giustamente. Poi se si può fare, se non si può fare, chiudiamo l'occhio e andiamo avanti. Sì, ma purtroppo è così, però tutto, anche io posso comprare, per dire, un pesce che è di acqua dolce, lo pesco al mare e me lo vedo perché l'ho pescato a mare, no? Vabbè, diciamo la verità, che io non sono tanto per il pesce, quindi è un argomento che una volta al mese forse posso affrontare quello, perché sono più per la carne. Ma io ogni tanto un'oratina me la faccio, perché compro sempre, vabbè, prendo in pescheria, adesso hanno messo la pescheria come si deve, lì a Rospinqua hanno messo, e ti dico che portano pesce abbastanza, e un'oratina ogni tanto me la faccio fuori, sempre quella come hai detto tu, dai 400 in su. E allora, anche perché fra la mia vita io non la mangio spesso, la mangio una volta al mese, massimo due volte, ma proprio perché a me il pesce mi piace mangiarlo a distanza, perché me lo gusto, però non, se tu me lo dai l'indomani non lo gradisco, capito? Mentre invece la carne la gradisco ogni giorno. Sì, la carne è più gradita durante il giorno, tutti i giorni, non tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no, è più gradito, mentre il pesce è diverso. E allora, poi vabbè, sente molta gente, dice no, una bella mangiata del pesce, certo, sì, ci sta, una bella mangiata, una però, se poi domani ti danno un pesce, allora, io parlo per me, poi, che ne so, la carne, oggi la mangio, domani c'è, ma la mangio lo stesso, dopomani c'è, magari di diversa maniera, la mangio lo stesso. Al contrario del pesce, il pesce dopo mi diventa stomachevole. Sì, perché mangiare spesso sempre le stesse cose, poi alla fine dici boh, basta, finito, e c'hai mesi che non li mangi. È vero. Vabbè. No, io sono, anche io sono più alla carne, perché mangio come piace un bel la pancetta, oggi stasera la carne di cavallo ci abbiamo fatto. E a volte pancetta, salsiccione, queste cose qua. Sì, vabbè, ma a prescindere da quello, nel senso che la carne, magari io non parlo solo di arrosto, la carne, che ne so, la carne in generale, le fettine impanate, la carne al sugo, queste cose qua, non la stufo. No, io le fettine impanate le stufo invece, le ce le ho spesso. Gusti e colori. Infatti, quasi mi bevo una birra, va. Bene. Gavino. Ma e poi è risolto con l'antenna, fra? Come è risolto? No, non l'ho toccata neanche. Ah, non l'hai alzata, non hai fatto niente? No, l'ho tirata su. l'ho tirata su, più di un metro l'ho tirata su, se non di più anche, però stanno andando bene, ho visto, ce l'ho nell'ICOM e sta ricevendo la bomba. Capito. Ho capito. No, io ho dovuto dare la radio a Fabrizio, perché non stavo andando, non stavo facendo il fatto. Se non esce il fatto vuol dire non so il finale sicuramente. No. Altra cosa che mi ha detto lui, però sinceramente non entro in merito perché non so cosa dirti. Vabbè, vuol dire che c'è qualche altra cosa che non la fa uscire, magari in linea, cioè dipende anche dalla scheda dei finali, però magari i finali sono buoni e c'è qualche altra cosa. Sì, sono entrato. Bene, riprendi, no, sto facendo a Franco, che ho dato la radio a Fabrizio per dargli una stirata. Ehi, quanto ti sta arrivando? Fai 9 e 18, va. Vabbè, va bene. Buona è la radio? Sì, va bene. Ok. Va bene così. Baracco. Andrà bene, e si sente anche bene. Oh! Senza la I. Oh. Quindi, io ho preparato già il pendemonio per le orate. Il cavolo, senza beccarle. Compro. Compro e pagherei dai, lascia così, lascia perdere. Anche quelle sono arrivate a prezzo d'oro, cioè i pulpi sono 14 euro, non lo so, 14,90 per l'esattezza. Io ho trovato una persona che me l'ha fatta sentire, era ora, ne ho preso 5 kg perché non ne avevo altre, però la prossima volta ne prendo altre 5 kg, a 12. Nulla, pescatore li vendeva a 7, fino a 5-6 anni fa, andava a bordo a 7 euro, adesso va a bordo a barca a 12, a 10, a 11, ma finché sono a 10 si possono anche prendere, a prezzo di calamaro. Sì, è vero, però come si suol dire, meglio un gusto che 100 malanne. Io li ho presi perché quando ne vuole delle cose, capi, è inutile fare a girarci intorno. No, è vero. Io ti devo dire una cosa, proprio sinceramente, il polpo lo preferisco al calamaro e anche alla secchia. Io i calamari li preferisco, però il polpo non lo mollo. No, vabbè, c'è la verità che a me piace molto il polpo fatto in salata, però l'ho provato anche arrosto e ti dirò che non è niente male. Impanato e fritto, lo fai impanato e fritto e poi da un'altra parte lo fai agliata. Impanato e fritto agliato, una bontà, buonissimi. Vai Franco. Il polpo ti frigge il portafoglio, però è buonissimo. Ma era una cosa che si poteva comprare fino a 8-10 anni fa, era una cosa molto, cioè, che tutti si potevano permettere, adesso è diventata una cosa che, sì, il gusto, meglio un gusto da 100 malanni, però se prima potevi comprarlo due volte alla settimana, adesso lo prendo una volta al mese, purtroppo è così. Come le sardine, prima le sardine te le tiravano a schiena, andavi al porto e vendimi un paio di sardine e te le davano una cassetta. Adesso se vai e gli chiedi un chilo di sardine, non ti bastano 20 euro. Ho capito. Vedimi. Io la mattina, tanti anni fa, quando uscivo da lavoro la mattina, passavo al porto, prendevo la cassa 10 euro, prendevo una cassa 10 euro, poi è aumentata a 20 euro, poi da 20 euro si è riuscita a 50. Facciamo tutto questo una cassa di sardine, l'hai più prestato? No, non ci sono più andato, non lo so adesso. 110. Ah, ti immaginici? Ma lo sai quanto me ne ha giovato marinada, sottosale, quanto me ne va zio, a desiderio la gascia. Adesso è 110 euro la cassa, le sardine, la rosa è a 70. Oh, Gavi. Dimmi. Ah, per curiosità sono andato a fare la spesa da Lunais. Ho visto, credimi, queste salsicce che apparentemente, ho detto, mi sembrano buone, eh. Vabbè, per curiosità guardo il prezzo, ma io non ci qua, io non lo so se la gente è scema o è scema, oppure è scema. Cacchio, 27 euro al chilo, 27 euro al chilo, una salsiccia commerciale, senza sapore. E una persona che le fa a casa e ti dà un chilo di salsiccia a 20 euro, tu dici, catabo che cara, però ti compri quella a 27 commerciale, forse perché loro vedono, non c'è un bisogno di salsiccia per dire 9 euro, vabbè la prendono, però non sono quanto pesa. Io ci sono rimasto male. Sì. Così è per le perette, eh? Per le perette di formaggio. Una peretta, io prendevo quelle di Pefuas, che sono buone, e la pagavo, una peretta era 600 grammi, la pagavo 9 euro, dai, 9 euro, 8 euro una peretta. Adesso la stessa peretta la paghi 15, 16 euro, eh? No, io ho detto no, la gente non lo so, ma è scema quando pensa a queste cose qua, perché poi va a ricadere sempre, tra virgolette, nella mondezza, perché io posso garantire che metto roba sana e genuina, loro non lo so. No, che non conviene prenderne. Guarda, ma neanche formaggio, ma tu hai più visto formaggio da 8 euro al chilo? Sì, dal pastore, dove vado io? No, al supermercato. No, per quello ti ho risposto. Dal pastore, sì, te lo può dare a 8, a 10. C'è il dolce sardo che mette in un quarto di forma, che saranno 250-300 grammi, lo paghi 6 euro. Sì, ormai mi dispiace, ma chissà, stanno combattendo per le farine, chissà se va in porto la cosa. E adesso bisogna stare attenti con quella farina. Dico, contentino. E tutti a casa, intanto manifestando sono intanto al loro gioco, perché sono in giro manifestando, facendo, e non stanno curando la terra, quindi sono al loro gioco, perché la cosa migliore secondo me era produrre e vendere sotto banco. Dice, ma tu vendi il nero, e vabbè, mettimi il verbale, vendi il nero, mi metti il verbale, però intanto io la roba mia la vendo, e la moglie, la terra non la moglie. No, Gavi, non è così, perché oggi è tutto certificato e tu non ne puoi vendere, perché tu a chi la vendi? La vendi a me, che io vendo per dire, o faccio pasta, e io devo far risultare dove l'ho comprata la cosa, no, non è così, no. stanno facendo bene quello che stanno facendo, secondo me, perché si è bloccato tutto quanto e non stanno facendo entrare i prodotti da altre parti. Stanno, adesso per dire, guarda in Francia, anziché se non erro il prodotto francese, scaricano l'articolato tutto in terra e lampadine in tutto. Qua sono pecoroni, cosa vuoi ti dica? Prima si coltivava e si vendeva. Prima se io coltivavo e vendevo, avevo il camioncino, prendevo, andavo e mi vendevo la roba. Adesso non lo fanno più quello, perché fanno prima a dare tutto una mano al mercato e... Però hanno fatto vedere anche che i mercati, la roba, se la vendono te la pagano, se non la vendono la buttano. Prima non funzionava così, perché la vendono, ok, non la vendono, la mettono al 50%, non la vendono, la mettono ancora più bassa e poi va a regalare. Questa sarebbe stata una strategia per non buttarci la cosa. Però, non lo so, io ho vissuto anche quell'era che alla Rinascente la cosa che stava per scadere te la davano il 50%, poi c'erano i furbiti, no? Quelli che ci lavoravano giustamente, e prendevano la cosa che gli piaceva, tipo il camoscio d'oro, questa roba qua, no? E andavano dove, che ne so, al titolare, sta per scadere, ma dai, per 20 euro, magari c'era una cosa di 200-300 euro, capito? Sì. E vabbè, chissà come andrà a finire tutto. Vai, fra. E come ti credi che andrà a finire? Un po' di grilli, cavallette e scarafaggi e vermi come fanno in Cina. No, assolutamente quella roba lì te lo posso garantire che se la mangiano, ma te lo posso garantire veramente. E non lo so come va a finire, non lo so, perché questo nostro stato italiano non so cosa gli ha fatto a capo, gli faccio mangiare tutta questa roba, però io meglio morire di fame. Aspettate, è vero, l'idea vostra è anche giusta, che però ci devo mettere un berretto sopra. Come facciamo a sapere se realmente noi stiamo mangiando cosa sana e genuina e invece magari la stiamo mangiando già da qualche anno a nostra insaputa? Vuol dire che non la sanno i negozi, non la stanno esponendo col marchio col nome di, per dire, la farina, al posto di dargli grillo gli stanno dando farina di grano. Allora no, ma non è il negozio che lo vende, è il produttore che potrebbe fare queste cose qua a nostra insaputa, nel senso che ti dice che una cosa mentre invece un'altra, ma neanche il produttore, ma lui potrebbe essere anche lo Stato, chi lo sa. Sono loro che, non è manco lo Stato, è la comunità europea che fende tutto questo casino. Appunto, fra, quindi non bisogna mai dire di quell'acqua non ne bevo, perché magari la stai già bevendo a tua insaputa. Finché io non lo so, tutto passa liscio, ma se lo sgoggo, cioè, fa schifo, eh? Quello non lo metto in dubbio. Certo, io non sarò quello che vuoi. Allora, io sono del parere che della cosa mangiare mi piace provare tutto, però sapendo una cosa del genere no. Anche no, non ci tengo a mangiare animali perché non me ne frega niente. Però magari vado a comprare un chilo di farina, non mi metto a leggere sinceramente, cioè dovresti essere molto attento su queste cose qua, dovresti leggere tutto quanto, magari tu vai a fare la spesa, la fai in fretta, prima poi la usi, neanche te ne accorgi, e c'è e tu non lo sai. Adesso per dire, anche questo fatto di questo stemma della, della rana che c'è, adesso non mi ricordo come si, il nome specifico che contiene questo alimentare qua, fa male all'organismo vostro, però noi ne usiamo componenti, noi tra virgolette, io sto evitando. Boh, io questo non me ne ero neanche accorto fino a pochi giorni, una settimana fa, che me l'ha fatto notare mio cognato. Leggi cosa contiene quello lì e poi ti informi cos'è. Cosa ne so io. Oh, questa gente ci stanno facendo mangiare delle cose che fanno schifo proprio. Vabbè. Vuol dire che chiudete i cani, perché allora alla fine loro, miei gatti. Guarda, io molte volte vado a fare la spesa con mio figlio, no? E gli piace, che adesso gli piace una cosa, la prende, la guarda, no, boh, non si può comprare, c'è la rana, mette la posta. vedi, fa bene, io non l'ho mai guardato questo coso qua, di la verità. Lo stai mangiando e non sai cosa stai mangiando, quindi questa potrebbe essere una scintilla tra le tante, vai, capito? Sì, già te la faranno mangiare. Ce la faranno mangiare. Possiamo mettere la faranno mangiare questa farina di insetti e cose. Perché porteranno il pane a 10 euro al chilo e il pane è fatto con la farina di insetti a 40 centesimi al chilo. Non lo compri un mese, non lo compri due mesi, non lo compri tre mesi, il pane aumenterà, il pane con la farina normale aumenterà sempre e quello lì andrà, sarà sempre a 40 centesimi e ti porteranno a dire, beh, mi sa che lo provo, tanto, ma si vela, lo provi e ti piace, lo mangi, fai un panino la mattina, ti fai un bel panino di farina di grillo con la mortadella fatta in laboratorio, con la mortadella fatta in fabbrica e capito, mangi quello in salumeria e dammi la mortadella, cosa vuoi, la mortadella suprema, a quanto è? A 12 euro letto, è quella fatta in laboratorio, quella fatta è, il panino ti viene, un panino con la mortadella ti viene 50 centesimi. Fammi quello a 50 centesimi. No, non è così, che a costo di comprarmi oppure di piantarmi il grano e farmi la farina io e il pane me lo faccio in casa. Ma lascia perdere, che non lo farei mai. No, faccio un nuovo ettare di terra io sulle delle. Sì, però non lo farei mai. Non lo farei mai. Prima c'era questa mentalità qua, che la gente si faceva il pane in casa, ma sempre comprando la farina, attenzione. Era poca la gente che aveva l'intenzione di piantarsi il grano e di fare tutta la lavorazione per fare il panino, ma non ci credo. Ma io vedevo da mio padre e mia madre, mio padre lo metteva ogni anno il grano e lasciava il grano per fare la farina, lo portava alla macina, faceva la farina e si usavamo allora la farina nostra del grano che faceva mio padre, e mia madre faceva il pane settimana per settimana. Sì, ho detto prima lo facevano. Non sto uscendo, porca miseria. Sì che stai uscendo. Gabri, ma cosa mi dici mai? Non stavo di nuovo uscendo. Non ero io. Gabri, che fai mudando? No, poi c'è qualche sono sotto. No, non può essere. A 9:50. No, ero io. No, io, vabbè, può darsi che non esca. Comunque, hai detto bene, Fra, prima i tuoi lo facevano. Tu quante volte l'hai fatto? No, io non l'ho mai fatto, non c'entra, io non l'ho mai fatto, ma io stavo dicendo si tornerà a fare quello. Ma io la vedo dura, perché per come vedo i ragazzi di oggi, secondo me accettano la farina di grillo. Vabbè, ragazzi di oggi, ma che se non anima cugana di alzarsi la mano al naso? Permettiamo, se andiamo pure in mafficarissi, dando siamo a terra. Sì, andrai al McDonald's, andranno al McDonald's e si mangeranno il panino con la farina di grillo, l'hamburger fatto in laboratorio, l'insalata di plastica e il formaggio di polistirolo. E lo pagheranno 1,50 euro, capito? Mentre un panino fatto normale ti costerà 30 euro. È vero, è vero, è vero. Adesso molte volte sento i miei figli, che buono, che duro, il Mac. E però è mondezza, ma la volete capire che è mondezza? No, le piace. Cosa vi fa? Sono già adeguati loro. C'è mia figlia che una volta lei ormai è diventato il suo gioco andare al McDonald's. Io non posso essere, io sono contrario, sono super contrario, però non voglio essere il bastian contrario di più. Quindi fate quello che volete, a me non mi devo, io non ci devo andare. E attenzione che le prime cose, le prime schifezze, e ce le faranno mangiare in ristorante, ce le faranno mangiare in ristorante e in pizzeria le prime schifezze, perché secondo me i primi test li faranno con i ristoratori, che li proporranno farine a 3 euro il sacco per fare le pizze. Dice guai, mi spiace, c'è un po' di farina normale, un po' di farina di grillo, metti c'è nel mezzo e mai si vede, già se la mangiano. Prendi magari quello lì te la fa assaggiare, dice c'ho un'offerta oggi per le pizza e bibita a 5 euro. Occhio, quello lì si è piaciuto di Daura, vai tu. Ma guarda, stavo arrivando proprio a quel ragionamento lì. Chissà quante volte siamo andati in pizzeria o abbiamo ordinato delle pizze e abbiamo mangiato già la farina di grillo o che sia, a nostra insaputa, magari abbiamo detto cazzo che buona sta pizza. Credo che sapendo una cosa del genere io farei un omicidio familiare. No, è una cosa, di fare una strage. Sarebbe una guerra familiare, quindi non penso sia ancora successo. Però bisogna veramente bisogna stare attenti quando si compra una fesseria, no? Euro spin, si va l'euro spin, le baguette. Baguette arriva congelata, l'euro spin, non è che viene impastata lì e fatta. La baguette è roba che arriva dalla Francia, dalla Germania, non da arrivi. Bisogna stare attenti, per esempio quella lì è la prima cosa che bisogna stare attenti. I cornetti, quelli congelati che si mangiano al bar, quelli del congelati, quelli che si vedono belli, gonfi, quelli bisogna stare attenti. Ci sono alcune cose che puzzano, non che puzzano che hanno odore, però tra le quali ci sono le baguette, i crackers, i grissini, quelli che non hanno una provenienza ben definita, che ti possono mettere prodotto italiano costruito in Bulgaria, dove c'è in Bulgaria, in cose, in Afghanistan, dove sono quelle cavallette che pesano 6 kg. Però prodotto in italiano, Sì, vabbè, è come quando compri la roba elettrica, no? Made in Cina, ma assemblato in Italia, è sempre in ginocchio. Ragazzi, per carità, Io vedo mandare, devo preparare ancora la roba per i cani, devo ancora preparare una roba mia, domani partenza presto, quindi vi devo salutare, dai. Le cavallette sono buone, però adesso non le devo mangiare. Mega, niente io adesso chiudo, anche adesso chiudo. Domani anche io la sveglia, non presto, presto, alle 6:30. Però non è presto, presto, ma non è neanche tardi. Quindi chiudo anche la trasmissione, ne approfitto che ho il mic a mia disposizione. Quindi buonanotte Tino, buonanotte Franco e buonanotte. Te l'ho fatto mollare, hai visto? quindi devo, dai, buonanotte Tino, buonanotte Franco e buonanotte anche a chi si fosse fermato a fare un po' di ascolto. Va bene, ciao, buonanotte a voi, al vostro cuore familiare, ce la risentiamo domani, io chiudo la trasmissione qua 27:55. Ascolto i vostri saluti e spengo. Ciao, buonanotte. Tranquillo, non c'è nessuno in ascolto, tranquillo, dormi tranquillo. Buonanotte, ce la ascoltiamo. Buona giornata per domani, Gavino. Avanti a te, Tino. Sì, va bene, va bene. Tanto anche quelli che ascoltano la maggioranza la farei grillo, quindi morirete tutti. E un giorno forse anche io, forse, non lo so, adesso vediamo. Sì. No, moriranno tutti. Sì, perché qualcosa di brutto, sì. Succede qualcosa di brutto. Va bene, bisogna riderci sopra su queste cose. Ciao, buonanotte a tutti, ciao anche agli avventuri ascoltoni, tanto la mangerete lo stesso, ciao. Capo, oh Tino, c'era stasera, ho visto un video di Troisi che era alla finestra appoggiato, è passato questo frate e gli ha detto, dice, ricordati che devi morire. E lui, cosa? Ricordate che deve morire, sì, va bene, ma ricordate che deve morire, va bene, adesso fate me lo segno. C'è che si dimentica, poverino, che è molto giovane, poverino. bravo attore. Capo, va bene, dai, ce la riascoltiamo allora, buonanotte, buona giornata per domani, buon lavoro, ciao a tutti. Ciao, domani. Ciao Fra, ciao, buonanotte. Ciao, ciao.